I movimenti di questa cassetta vanno fatti seduti in macchina, ma parcheggiandola al lato della strada, non mentre si guida, perché questa cosa potrebbe essere pericolosa. Si imparerà ad usare gli occhi, la testa, la nuca, le braccia, le gambe, in un modo diverso da quello che è il vostro mondo abituale. Per favore, cercate di non guidare mentre provate questi movimenti, perché il fatto di guidare può stancarvi e non vi gioverebbe nell'apprendimento. E rimanere seduti e fare questi movimenti avendo parcheggiato la macchina al lato della strada è la condizione ideale, perché è la migliore approssimazione del modo di guidare. È meglio non farlo parcheggiati nel garage. E altra raccomandazione: indossate le cinture. Non dimenticate, quando fate questi movimenti, di indossare le cinture di sicurezza. Quando avrete finito il lavoro, i movimenti del lato 1, potete iniziare i movimenti del lato 2 mentre guidate. Cosa, cominciamo con allacciare le cinture e parcheggiare la macchina di lato nella strada. La serie di movimenti che seguiranno vi farà accrescere il vostro piacere e la semplicità e facilità di guidare senza tensioni e dolori. Così potrete migliorare la vostra posizione mentre state guidando. Molte persone non fanno attenzione a come e alle posizioni che assumono mentre guidano, mentre questo è un fatto essenziale per riuscire anche a percepire determinati problemi improvvisi o problemi di postura, di tensione mentre si guida. Cominciamo ora la serie di movimenti. Per cortesia, sedetevi molto all'indietro in modo da appoggiare la zona lombare sullo schienale. Quando siete seduti in questa posizione potete raggiungere molto facilmente il cambio, il volante e le varie levette sul cruscotto. E adesso mettete l'attenzione sui gomiti, sulle braccia. Quando tenete il volante, come tenete le braccia? Sono tese, rigide, i gomiti sono piegati. Ora controllate com'è la vostra posizione nello stare seduti, come state seduti. Potete migliorare questo modo di sedere per guidare meglio. Prima cosa, andate, mettetevi in modo da sedervi indietro verso il vostro sedile, in modo che la parte posteriore del bacino, la zona lombare, si appoggi allo schienale. In questo modo potete raggiungere facilmente il cambio, le varie spie lucette nel cruscotto. E controllate se dopo aver allungato le braccia ci arrivate o no al volante, altrimenti aggiustate il vostro modo di sedervi in modo da poter raggiungere il volante. Ora mettete la mano al volante e guardate se i vostri gomiti sono dritti, tesi, piegati e se cadono molto rilassati verso il basso. E tenete il vostro volante in modo che le mani siano sulle posizioni che corrispondono, immaginando di avere un orologio davanti a voi, la parte alta 12, parte bassa 6, parte destra 3, parte sinistra 9, in modo che le mani corrispondano la destra al numero 2 dell'orologio e la sinistra al numero 10. Fate in modo che i gomiti siano sempre rilassati verso il basso. Vedete se il vostro bacino può toccare la parte posteriore del sedile mentre fate questo. In questa posizione potete raggiungere facilmente il cambio e tutte le altre leve. Mentre tenete le spalle e la parte alta della schiena appoggiate contro lo schienale, potete lentamente inarcare la zona lombare in modo da allontanarla dallo schienale. Riuscirete a fare questo attraverso un movimento nel quale rullate la parte alta del vostro bacino verso avanti. Ora muovete il bacino nell'altra direzione e quindi spingete la zona lombare indietro contro lo schienale. Continuate con questo movimento rullando col bacino avanti e indietro, quindi inarcando ed appoggiando per bene la schiena, soprattutto la parte lombare allo schienale, e fatelo molto lentamente. Mettete attenzione che la parte superiore della schiena e le spalle stiano appoggiate contro lo schienale mentre voi continuate questo movimento nel quale inarcate e incurvate la zona lombare. Potete fare un movimento molto piccolo oppure grande. Come volete, l'importante è che lo facciate molto e molto lentamente. Ora notate che mentre inarcate la parte lombare c'è una tendenza nel torace a sollevarsi e della testa a innalzarsi, sollevarsi verso il tetto della macchina. Ora mentre inarcate la parte lombare cercate di permettere alla testa di alzarsi e di andare ancora più in alto verso il tetto, in modo che raggiunga un'altezza ancora più in alto verso il tetto della macchina. Potreste trovare che avete un bel po' di lavoro per mantenere la schiena inarcata, anche se vi accorgerete che fate fatica a tenere inarcata la schiena. È sempre meglio avere un minimo di tono muscolare che non collassare, proprio lasciarsi cadere all'indietro contro lo schienale, perché questo farebbe sì che le vertebre del rachide nella colonna vertebrale si comprimano e quindi ci sia una certa debolezza, fragilità a livello muscolare. Ora, mentre continuate questo movimento del bacino avanti e indietro, trovate una posizione nell'andare verso avanti che per voi sia abbastanza piacevole e semplice. Posizione che sia confortevole, anche se non familiare e vi sembra strana. Ora mantenete questa posizione. E in questa posizione potete rilassare la vostra mandibola, il vostro mento, la vostra faccia, non stringere i denti. Bene, questa posizione è molto meglio che lasciarsi andare con la parte bassa della schiena contro lo schienale, senza fare lavoro, perché qui dove i muscoli lavorano provvedono supporto alla colonna vertebrale. La posizione ottimale che mi piacerebbe voi riusciste a trovare è quella nella quale la zona lombare è leggermente inarcata e ci sarebbe un minimo di lavoro per i muscoli di quella parte. Voi scoprirete che spesso fare questo lavoro è una cosa che vi riesce difficile, ma sviluppando la consapevolezza e il lavoro con questa cassetta arriverete a poter trovare il modo corretto non solo di star seduti mentre guidate, ma mentre siete seduti al tavolo in cucina, al tavolo di lavoro o in qualsiasi altra parte. Notate, mentre state seduti in questa posizione, se vi è facile respirare. In questa posizione, nella quale la schiena è leggermente inarcata, il torace sollevato e la testa sollevata verso il soffitto, vi accorgerete che è più facile inspirare, quindi tirare dentro l'aria. Ora voglio che voi impariate qualcosa, o meglio, le differenze tra quello che avete sentito e imparato fino adesso ed altre cose, altre sensazioni. Ora lasciatevi cadere con la parte bassa della schiena contro lo schienale, in modo che proprio la parte lombare si appoggi dietro allo schienale, come se fosse collassata. Lasciate ora che anche il torace si abbassi, si collassi, e lo stesso permettete che anche la vostra testa leggermente si fletta verso il basso. Quindi il torace non è più sollevato, ma è come incassato, si lascia cadere verso il basso. Potete sentire che ora nel vostro torace non c'è più spazio per respirare. Qualcuno di voi potrebbe sentire anche dolore nel torace mentre respira. Ora facciamo il movimento di prima, quindi il movimento di inarcare e incurvare la parte lombare con il bacino e quindi di conseguenza il torace e quindi la testa, e controllate se adesso avete più facilità in questo movimento. Ora sedetevi avanti in modo da muovere avanti e indietro il bacino e vedete com'è più facile per il torace sollevarsi e prendere un respiro completo. Molte persone possono dormire mentre guidano perché respirano in modo inadeguato, perché lasciano cadere la parte della zona lombare, la lasciano collassare contro lo schienale. Adesso voglio che facciate un altro movimento e che troverete molto utile per la vostra schiena. Mentre mantenete sempre questa posizione inarcata con il torace sollevato e la testa verso il soffitto, potete premere la parte destra del bacino sul sedile e sollevare leggermente la parte sinistra. Poi premete verso il basso la parte sinistra del bacino mentre sollevate la parte destra. E lentamente alternate una volta la parte destra e una volta la parte sinistra. Potete fare questo movimento senza premere e senza strisciare fortemente le vostre mani sul volante come per aggrapparvi? Potete respirare facilmente mentre fate questo movimento? Questo movimento risveglia i muscoli della cintura e della parte bassa del bacino dell'addome. Man mano che fate il movimento, vedete se potete aumentare la grandezza del movimento che voi fate. Più va in basso un lato, più l'altro si solleva, più la parte destra va verso il sedile, più la sinistra si solleverà verso il tetto e sentirete non solo se voi proprio vi spostate a destra, a sinistra, ma anche i muscoli della parte bassa della schiena che si muovono, e lo stesso i muscoli della cintura. E controllate se sentite anche la vostra testa che si inclina da un lato e dall'altro. Ok? Adesso fermatevi per un attimo, un po' di riposo, e mentre vi riposate, notate se riuscite a riposare mantenendo un leggero inarcamento nella parte bassa della schiena, nella zona lombare. Potete trovare un modo confortevole di usare i muscoli della schiena, un vostro modo di fermarvi e di riposare, o avete bisogno di collassare. Potete respirare facilmente. Ora fermatevi col vostro bacino lì indietro contro lo schienale e lasciate che la vostra schiena e le vostre spalle rimangano in quella posizione. E adesso di nuovo venite in avanti col vostro bacino e inarcando la schiena in modo da trovare ancora la posizione nella quale tenete la parte lombare inarcata e nel modo ottimale per voi. Io avrei piacere che voi riusciste a mantenere questa posizione per un po'. Il prossimo movimento che vi chiedo di fare è chiamato il focus soffice e riguarda un lavoro con gli occhi. Molte persone fissano la strada davanti a loro e i muscoli degli occhi si affaticano, la mandibola si contrae e si blocca il respiro. Si smette di respirare e si arriva a destinazione molto stanchi e stressati, sentendosi veramente male e a volte anche con il mal di testa. Quello che stiamo per fare è un movimento che vi aiuterà a cambiare questa abitudine. Quando guardate alla strada che avete davanti a voi, non fissate gli occhi, ma scegliete una determinata distanza davanti a voi e fissate in quella direzione tenendo gli occhi fermi. E mentre rimanete fermi in questa posizione senza muovere gli occhi, guardate cosa succede al lato destro della strada, per esempio se c'è un'altra macchina, se ci sono degli alberi, se c'è dell'erba. E notate anche la parte interna della macchina, per quel che riguarda il passeggero che può essere seduto accanto a voi o l'interno. Comunque nel fare questo tenete gli occhi fissi avanti in quella direzione che avete scelto. Ora notate che potete vedere un bel po' verso la propria destra, verso la vostra destra, sia all'interno che all'esterno della macchina, senza aver mosso i vostri occhi. Quindi avete aumentato il vostro campo di visione. Voi fate questo permettendo ai vostri occhi di diventare soffici e permettendo alla luce di entrare nei vostri occhi. Questo migliorerà la vostra capacità di vedere, di visione. Ora mantenete gli occhi avanti nella stessa direzione, nello stesso posto e notate, come avete fatto a destra, tutto quello che c'è alla vostra sinistra. Notate che non c'è bisogno di muovere gli occhi per vedere da una parte all'altra, ma potete permettere alla luce di entrare nei vostri occhi, luce che può venire da tutto attorno, che può venire anche dall'alto, potete poi notarla in basso anche quando guardate avanti, potete notarla anche quando state guardando in basso con le mani che tengono il volante. Notate quanto spazio possono vedere i vostri occhi senza muovere le pupille. In pratica, quanto spazio possono vedere i vostri occhi senza muovere le vostre pupille dalla direzione in cui state guardando davanti a voi. Vorrei, mentre fate questo, che voi aveste la sensazione dell'ambiente che sta entrando nei vostri occhi, nella fronte, nella faccia, nella vostra mandibola. Mentre permettete alla luce di entrare ai vostri occhi in modo soffice, senza irrigidire i muscoli, lasciate che gli occhi comincino come a muoversi e sperimenterete che non hanno necessità di fissare verso determinate parti. E mentre fate questo, prendete dei respiri profondi. Ho accennato prima che noi apprendiamo più facilmente attraverso contrasti. Adesso guardate la strada che è davanti a voi e guardate proprio fissando nello stesso modo di prima e guardando in questo modo, quindi molto fisso, irrigidendosi, guardate avanti, irrigidite anche il vostro mento e potete sentire come diventano i vostri occhi, lo sguardo, il resto della faccia, e diventa chiaramente anche difficile respirare. Anche la nuca si irrigidisce, tutti i muscoli che si inseriscono sulla testa. Ora rallentate e rendete questo sguardo fisso più morbido. Vi sarete accorti che se fissate troppo con gli occhi si irrigidiscono sia il torace che la nuca. Ora di nuovo guardate in modo non eccessivamente fisso, rilassate la mandibola, lasciate che i denti si allontanino, la faccia si rilassa e permettete all'ambiente proprio di venire verso di voi e notate se potete avere un campo di visione che rispetto a prima è molto più grande e più vasto senza dover fare alcun sforzo. Con questo sguardo degli occhi che non è fisso, potete ruotare la testa e guardare al di sopra della vostra spalla sinistra e della vostra spalla destra. Ora continuate avanti e indietro guardando verso destra e verso sinistra, notando come gli occhi permettono a questa luce di entrare verso di voi e com'è il campo di visione degli occhi, se è meglio di prima o no. Sopra quale spalla potete guardare più facilmente? Potete farlo senza sforzo. Voi noterete che la nuca ruota molto più facilmente se voi non fissate eccessivamente con gli occhi. Ora guardate sopra la vostra spalla a sinistra. Potete farlo senza attaccarvi eccessivamente o aggrapparvi eccessivamente al volante senza bloccare il respiro. Ora guardate verso la vostra spalla destra, state ferme per un attimo e poi notate di nuovo se lo fate senza fermare il respiro, senza aggrapparvi eccessivamente al volante, eccetera. Arrivate di nuovo al centro ed ora fate la stessa cosa irrigidendo gli occhi, fissando eccessivamente come vi avevo chiesto di fare all'inizio. Stringete quindi fortemente i denti e rimanendo in questa posizione ruotate la testa a destra e a sinistra e noterete che è molto più difficile. Ora, visto che voi sapete come cambiare da un atteggiamento all'altro, cambiate il modo nel quale guardate, quindi non fissate troppo con gli occhi, rilassate il mento, lasciate che i denti si allontanino e vedete se potete migliorare il vostro movimento in testa, nuca e anche il vostro respiro. Ora lasciate che i vostri occhi siano al centro, in mezzo, potete muovere la vostra parte alta del corpo verso destra e verso sinistra ruotandola, quindi ruotando il vostro torace e le vostre spalle e quindi la testa seguirà e anche il vostro bacino potrebbe partecipare o no al movimento. Se lo fate lasciando libero il movimento, sentirete che tutto il corpo partecipa per ruotare a destra e a sinistra, cominciando con spalle e torace, arrivando a muovere fino al bacino ed anche la testa. Andate, ruotate il più lontano che potete senza irrigidire eccessivamente la nuca. Questa è la cosa essenziale: non irrigidire la nuca, ma mettere attenzione alla rotazione delle spalle e del torace. E poi il bacino, e poi vedrete che la testa ruoterà più facilmente verso destra. Troppo rumore di macchine. Bene, adesso riposate. Ed ora complichiamo un po' di più il movimento. Voglio che ruotate il torace lasciando che il bacino segua, ma che contemporaneamente ruotate la testa nella direzione opposta. Andate avanti con questo movimento e quindi se il torace gira verso sinistra, la testa ruoterà a destra, quindi verso la spalla destra e viceversa. E se torace e spalle vanno verso destra, la testa guarda chiaramente al di sopra della spalla sinistra. Fate un movimento molto lento, soffice. Tra le spalle ed il resto del corpo. Fate un buon movimento, molto soffice tra nuca, testa e resto del corpo e continuate in questo movimento di opposizione in modo che arrivi a risultare facile, semplice, piacevole. E notate se potete farlo tenendo gli occhi anche senza irrigidirli. Mettete poi l'attenzione a dove stanno guardando i vostri occhi. Potete sentire il movimento anche nel bacino o no? Potete farlo, questo movimento di opposizione, molto facilmente, tirando in ballo anche il movimento degli occhi che non si irrigidiscono e lasciando quindi che il bacino si muova in direzione opposta alla testa e che le vostre braccia e mani non stringano, non siano aggrappate al volante, ma che lasciano lo sforzo principale ai muscoli delle spalle e del tronco. Ora riposatevi e dopo che vi siete riposati semplicemente ruotate di nuovo la testa a destra e a sinistra senza irrigidire gli occhi e sentite se diventa molto più facile e confortevole il movimento. Vi accorgerete che molte più parti del vostro corpo parteciperanno a questo movimento di rotazione del capo. Potete quindi sentire questo movimento della testa collegato lungo tutto il corpo fino al bacino. Per esempio, se volete guardare fuori al finestrino che avete lì dietro, state facendo lo sforzo con tutto il collo oppure state facendo un movimento con tutto il corpo, permettendogli di ruotare fino in basso al bacino. Ora fate lo stesso movimento dall'altra parte e vedete se potete arrivare con gli occhi fino anche dietro, lasciando che siano coinvolte il maggior numero di parti possibili del vostro corpo fino in basso al bacino nel movimento. Ora riposatevi ancora un po'. A volte le persone irrigidiscono il loro torace, le loro schiene, quando sono arrivate al punto nel quale non sono più in grado di ruotare. A questo punto controllate se nel fare questo movimento di rotazione state respirando o no. E se non state respirando facilmente, il movimento vi sarà reso molto più complesso e difficile. Ora, prima di continuare con il prossimo movimento, potete constatare se avete trovato la vostra posizione ottimale per guidare. Il vostro bacino è indietro contro lo schienale. Potete sentire un po' di sforzo di lavoro nella vostra parte lombare, quindi un po' di lavoro nella vostra parte lombare che fa sì che riusciate a sostenere, a dare supporto a tutta la colonna vertebrale, ed è il vostro torace sollevato in modo da respirare facilmente e le vostre mani sono appoggiate sul volante in corrispondenza delle 10 e delle 2 dell'orologio, e senza sforzo eccessivo, senza aggrapparsi. Potete rendere i vostri occhi soffici, come dicevamo prima, senza avere lo sguardo fisso ed avere la mandibola molto rilassata, senza i denti che si stringono. Ora portiamo l'attenzione alle due spalle, cominciamo con la destra. Potete leggermente e molto lentamente abbassarla e sollevarla. Ora continuate ad abbassarla e a sollevarla molto lentamente, molto poco, qualche centimetro. Non sollevatela a scatto e abbassatela con sforzo, ma proprio molto lentamente, come se fosse il movimento di un ascensore che sale e che scende. Ora, mentre sollevate e abbassate la spalla, cercate di sperimentare, di sentire quali sono i muscoli che coinvolgete in questo movimento di sollevare la spalla e quali sono i muscoli che lasciate andare quando lentamente abbassate la spalla. Bene, così basta. Ora, con la spalla destra, fate un piccolo movimento come per descrivere un cerchiolino. Per favore, fate un cerchio molto molto piccolo e molto lento. Il movimento diventa più efficace più pensate con la spalla di descrivere un cerchio che non se pensate di descrivere un movimento molto grande. Siamo abituati a fare esercizi, a rendere forti i muscoli, piuttosto che a controllare quello e come muoviamo le nostre spalle. Ora fate un cerchio molto piccolo, perfettamente rotondo, con molto molto poco movimento. E concentratevi sul fatto che sia un movimento proprio rotondo, senza eccessivamente lavoro, il più tondo possibile e il più lentamente possibile. Bene, adesso fermatevi e invertite la direzione del cerchio. Molto lentamente, il cerchio è molto piccolo, respirate e fermatevi. E adesso che vi siete fermati, vi accorgerete che c'è una grande differenza nella sensazione che percepite della vostra spalla destra e della differenza tra la destra e la sinistra. Sentite se la spalla destra è molto più rilassata, se è più viva. Bene, adesso potete fare lo stesso movimento con la spalla sinistra. Iniziate sollevandola verso l'alto e verso il basso, molto lentamente e gradualmente, immaginando, come dicevo prima, che sia il movimento di un ascensore che sale e che scende. Quindi non sollevatela troppo, ma solo qualche centimetro. Cercate di essere sicuri di non fare troppo, ma solo quello che vi permette di sentire come muovete la spalla e cosa succede. Bene, adesso fermatevi e a questo punto fatela riposare. Dopodiché vi accorgerete che già ora ci sono dei cambiamenti nel modo di tenere la spalla e nel rilassamento. Adesso cominciate col descrivere un cerchiolino con la spalla sinistra, molto lento, molto piccolo, che sia quasi un cerchio perfetto, con un movimento molto soffice e continuo. Più è piccolo, più riuscite a farlo rotondo, più simile a un cerchio. Vi accorgerete che in determinate parti il movimento viene molto rotondo e molto bello, e quindi avete già un buon controllo del movimento sul cerchio. In altre parti invece il movimento sarà più difficile, quindi dovrete diventare un po' più consapevoli del lavoro che fate con la spalla. Ora fermatevi e invertite il senso, cominciate a fare la circonduzione nell'altra direzione. Mentre fate questo movimento potete non fissare con gli occhi come facevate all'inizio, rigidendoli lungo la strada, ma rendendoli soffici senza fissare eccessivamente, senza rigidirvi. Riposatevi. E adesso, mentre riposate, controllate cosa succede, cosa sentite nella vostra spalla sinistra. Sentite sensazioni di tensione, di rilassamento. Fate caso se avete cambiato e vi siete messi in questa posizione spontaneamente. Ora, mettendo le due mani sul volante, come prima sulle 2 e sulle 10, tenendole appoggiate al volante senza aggrapparvi, potete descrivere con le due spalle dei cerchiolini molto piccoli, molto lenti, molto arrotondati e continui. Siate sicuri che sono cerchi rotondi, e mentre fate questo guardate davanti a voi senza rigidire eccessivamente gli occhi, con lo sguardo fisso e con gli occhi liberi di muoversi, rilassando la faccia, la mandibola, e tenendo una specie di arco nella parte bassa della schiena. E vi renderete conto anche che è possibile respirare mentre fate tutto questo. Bene, adesso riposiamoci un po'. E mentre vi riposate, rendete soffice lo sguardo, non fissate con gli occhi. E notate se il campo di visione ora è ancora migliorato, no? Notate come tenete la schiena, come sono le gambe, come tenete il volante, com'è la mandibola. E cominciate lentamente a ruotare la testa a destra e a sinistra. E continuando a girare la testa a destra e a sinistra, divertitevi gustando l'aumento di consapevolezza e tutto il campo di movimento e di visione che è aumentato e migliorato rispetto all'inizio. Bene, adesso facciamo un ripasso. Prima cosa, contraete le spalle, irrigidite molto e contraete la vostra faccia, tenete molto rigidamente il volante quasi aggrappandovi, contraete la vostra mandibola, stringete i denti. Com'è la visione in questa posizione? Come sono gli occhi? Come vedete il resto attorno a voi? E ancor prima, controllate come tenete lo sguardo e quanto riuscite a vedere, quanto è grande il vostro campo di visione tenendo questa posizione. Magari avete dolore ed inoltre il vostro torace probabilmente si collassa, si arrotonda va indietro verso lo schienale. Non vi sentite male messi in questa posizione? Ora siete resi conto di questa posizione e vi rendete conto che siete effettivamente messi molto male, con tensioni dappertutto e vi sentite veramente da cani. Ora vediamo come uscire da questa situazione. Lentamente lasciamo che le spalle scendano verso il basso, che il bacino rulli verso avanti in modo da provocare un arco nella zona lombare, da inarcarla. Lasciamo che il torace si sollevi, che la testa si innalzi e cerchiamo di rendere lo sguardo verso avanti con gli occhi il più soffice possibile senza irrigidirlo. Lasciamo che la faccia si rilassi, il volto si rilassi, che i denti non si stringano. E vedete adesso com'è più facile respirare in questa posizione. Ora, mentre siete seduti in questa situazione ottimale per guidare, quindi con gli occhi, con lo sguardo soffice, con la mandibola rilassata, con un po' di arco nella vostra parte bassa della zona lombare, con le spalle perfettamente rilassate e le gambe perfettamente libere di muoversi come è necessario, fate attenzione al respiro e controllate. Quando inspirate, tirate dentro l'aria, sentite il vostro torace che si espande e quando espirate, quindi buttate fuori l'aria, potete spingere in fuori la vostra pancia in modo che quando il torace spinge verso il basso, aumenta il volume nella vostra pancia e nei vostri fianchi, nel vostro addome. E quando invece inspirate di nuovo, tirate indietro la pancia mentre il vostro torace si espande e mentre buttate fuori l'aria, lasciate che il torace scenda in basso e che la pancia si espanda insieme a tutto il fianco. Andate avanti e indietro, continuando questo movimento di inspirazione e di espirazione molte volte, ricordandovi che ogni inspirazione espandete torace, ad ogni espirazione espandete pancia e addome. Guardate se potete fare questo con uno sguardo non fisso e rigido e con la mandibola rilassata, perché chiaramente è una cosa molto difficile da fare se tenete i denti stretti l'uno contro l'altro. E ora rilassatevi e riposatevi e di nuovo trovate la vostra posizione ottimale per guidare. E quando l'avete trovata, controllate come lavora ora la schiena per mantenere questa specie di arco. Questo è tutto quello che abbiamo fatto su questo lato, lato 1 della cassetta, e spero che vi sia piaciuto e vi sia servito. Mi raccomando, fatelo solo quando la vostra macchina è ferma e è parcheggiata. E per favore ascoltate e fate questa cassetta parecchie volte finché non avete ben imparata e ben appresa.